Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gismondi, dal laboratorio artigiano all'arrivo in borsa, di Alessandra Scaglioni. La storia che vi raccontiamo oggi riguarda un'impresa giunta alla settima generazione, nata a Genova ed arrivata negli Stati Uniti, partita dal lavoro artigiano e sbarcata di recente in borsa. È la storia di Gismondi, azienda orafa nata nel 1700 con Giovan Battista Gismondi e guidata oggi, più di 250 anni dopo, da Massimo Gismondi. La storia della mia famiglia risale al XVIII secolo, 1754. Una passione che fin dall'inizio il mio capostipite, il Fugio Batta Gismondi, fin da bambino alimentava la sua anima, tant'è vero che incominciò a lavorare all'età di 8 anni, quindi veramente da ragazzino. Era abbastanza consuetudine all'epoca, no? Che per portare qualche soldo in famiglia si incominciasse molto presto. Ma da lì è incominciata una vera e propria storia, oggi, secondo me, di un'eccellenza italiana, perché non sono molte le storie da raccontare con 7 generazioni, ma che in realtà nascondono quello che è il vero valore aggiunto dell'Italia di oggi, no? Il vero Made in Italy sta nelle PMI, nelle piccole imprese, nell'artigiano. L'artigiano Gismondi lavora in un laboratorio e fornisce opere a committenti di alto livello per un lungo periodo. Poi la società cambia e al laboratorio si aggiunge l'attività commerciale, con un negozio nel centro di Genova che esiste ancora oggi. La vita dell'azienda attraversa più di 2 secoli di storia italiana e ne segue i cambiamenti sociali e di mercato. Il primo laboratorio, che è stato aperto nel centro storico genovese, è stato accreditato molto velocemente dal Vaticano per dei lavori importanti che poi ancora in tutto il Novecento è stato uno, diciamo, degli nostri punti di riferimento. Le forniture che abbiamo fatto in tantissime diocesi, sia liguri ma genovesi, ma non soltanto, allo stesso Vaticano, tutto il Settecento è stato all'insegna dell'artigianato. Dall'Ottocento, in particolar modo dal 1880, è stata aperta la prima bottega su strada. In pieno periodo comunque di rivoluzione industriale, la richiesta comunque dei primi accessori di lusso, i primi monili d'argento, perché noi ricordiamo che nasciamo come argentieri ed è un'origine di cui ne vado molto fiera, anche se la mia passione e la mia propensione oggi è quella nel mondo del gioiello, però la nostra nascita è nel campo dell'argenteria. L'attività commerciale è incominciata nella fine dell'Ottocento nelle stesse botteghe dove siamo ancora oggi, nella nostra sede genovese. L'Ottocento, con l'apertura della bottega, è stato l'acceleratore di notorietà al pubblico, ai nobili genovesi, piuttosto che alla borghesia emergente genovese, che è quello che ci ha portato fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale abbiamo avuto l'opportunità di salvare, di nascondere un membro della famiglia Rosenthal all'interno della nostra bottega. Quindi ospitato per circa un mese, nascondendolo dai tedeschi, e gli abbiamo dato la possibilità di sopravvivere durante i bombardamenti di Genova. Massimo Gismondi vive nel mondo dei gioielli sin da bambino. Entra in azienda nel 1995 per tradizione familiare e per passione. Fin da bambino ho sempre viaggiato molto con la mia famiglia per lavoro, con mio papà, con mia mamma, un po' in giro per il mondo alla ricerca di quelle che erano un po' le pietre rare, le pietre preziose da montare nella nostra gioielleria. Quindi è un qualcosa che è cresciuto all'interno di me. Poi un fatto purtroppo tragico, la scomparsa molto prematura di mio padre all'età di 50 anni nel 1995 ha accelerato un po' quello che era un semplice sogno di un ragazzino e trasformare una vera e propria attività lavorativa, quello di cercare pietre eccezionali e montarle attraverso la nostra creatività e il nostro design. Massimo Gismondi decide di dare un'impronta diversa all'attività. Il primo passaggio è ampliare il numero dei negozi per sperimentare le potenzialità, prima in Italia, poi all'estero, e differenziare i canali di vendita. Portare quello che era un'eccellenza italiana, un qualcosa estremamente conosciuto nel tessuto sociale genovese, a una ribalta internazionale. Questo mi ha portato necessariamente, dopo oltre 15 anni di lavoro in famiglia, all'interno dell'azienda di famiglia, di decidere di andare da solo per raggiungere il mio sogno. E nel 2011 io e mia moglie abbiamo deciso di aprire la prima boutique fuori Genova, a Portofino, perché per noi Portofino rappresentava un trampolino di lancio per un mercato internazionale. E così è stato, perché nel 2012 abbiamo aperto a St. Moritz, dopodiché abbiamo aperto il negozio di Milano nel 2016 e poi è incominciato tutta la distribuzione wholesale fino ad arrivare col primo franchising a Praga, sempre nel 2017, e nella distribuzione americana a dicembre 2017. Quindi oggi diciamo che abbiamo un'azienda che ha sì i suoi canali diretti, ha già dei canali franchising e ha aperto quello che è il canale wholesale per gli Stati Uniti e quello poi che è il canale del Middle East. L'accesso ai mercati internazionali è arrivato da un incontro e una collaborazione con un gruppo americano e ha portato risultati e soddisfazioni. Negli Stati Uniti è stata una bellissima esperienza, incominciata 2 anni fa. Il gruppo Neiman Marcus, che è il più importante department store del lusso, proprietario anche di Bergdorf e Goodman, ha visto i nostri gioielli e da lì tutto è nato. Ci hanno scelto, ci hanno selezionato, ci hanno fatto saltare una waiting list di circa 3 anni e da lì è tutto è nato. Ci hanno dato a disposizione prima 3 location, poi sono diventate 5, adesso stanno diventando 6. Attraverso poi l'ultima partecipazione alla fiera di Las Vegas, nel quale abbiamo presentato le nostre collezioni, abbiamo partecipato al concorso forse il più importante al mondo in termini di design del gioiello e lo abbiamo vinto addirittura, quindi per noi è stata un'ulteriore soddisfazione che probabilmente ha confermato che siamo sulla strada giusta. La fiera di Las Vegas ci ha portato notorietà in quanto ovviamente Gismondi era già un po' conosciuto attraverso l'indosso di diverse celebrities che hanno scelto i nostri gioielli da indossare. La prima notizia che ha fatto il giro del mondo è stata Jane Fonda. Jane Fonda nel 2017 agli Emmy Awards ha scelto Gismondi, pur considerando il fatto che Gismondi ha una policy no fee, non vogliamo pagare le celebrity, noi diamo dei gioielli esclusivi e vorremmo rendere esclusiva ogni donna, che sia una celebrity, che sia una persona comune come sono io, però non riteniamo etico, per i nostri valori, i nostri principi che ci distinguono, pagare un indosso. I temi che emergono dalla storia di Gismondi sono legati allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Come costruire la crescita, come gestire l'internazionalizzazione, come strutturare l'azienda e quali obiettivi dare a questo percorso. Il percorso di internazionalizzazione è incominciato nel 2011 con l'apertura di Portofino. Poi mi sono accorto nel 2015 che per raggiungere quello che era il mio sogno, il sogno aziendale, non ce la facevo da solo. E allora ho deciso di organizzare l'azienda, mantenendo sempre quello che è il valore della famiglia all'interno, perché siamo tutta la mia famiglia coinvolta, ma inserendo persone che abbiano competenze, skills manageriali che mi aiutino in questo percorso. E da lì l'ingresso del nostro direttore generale, Stefano Rocca, ex Bulgari, Vernier, che condivide gli stessi nostri valori. Questo ha permesso di attirare ulteriori nuovi manager che hanno contribuito allo sviluppo strategico di Gismondi. Il primo lavoro, ricordo, che però ho fatto con Stefano, il mio direttore generale, è stato quello di, il primo giorno di lavoro, quello di scrivere i valori dell'azienda, ovvero tutto quell'insieme di principi e di valori che contraddistinguono la mia famiglia. I valori sono la famiglia, tutto, ma la famiglia in un senso allargato, non soltanto quella di origine, ma una famiglia lavorativa. Trascorriamo 8-10 ore al giorno, a volte 7 giorni su 7 con i nostri collaboratori. E il valore della famiglia è proprio questo, attraverso poi il secondo valore che è il rispetto dell'essere umano. All'interno della mia azienda vige il principio non fare al prossimo quello che non vuoi che venga fatto a te. E sulla base di questo abbiamo meeting continui nel quale ci confrontiamo, no? Sulle nostre azioni che facciamo. Il terzo principio, che è quello che ci sta guidando, è l'umiltà. Quindi l'azienda crescerà tanto quanto questi valori e questi principi verranno conservati. Oltre quel limite non ho interesse che l'azienda cresca. Negli ultimi anni il fatturato è stato in costante crescita, di circa il 10% all'anno. La produzione è concentrata a Valenza Po, mentre a Genova resta la sede creativa. Una scelta strategica perché Valenza è un centro logistico di sviluppo prodotto per tutti i più importanti brand del mondo. C'è un network estremamente consolidato, una tradizione, quindi si riesce a ottenere le qualità di manifattura che noi stiamo andando a cercare. Il laboratorio di Genova che noi abbiamo ovviamente è un laboratorio più di servizio che di sviluppo prodotto. Tenendo però presente che tutta la parte concettuale di sviluppo delle collezioni prende forma a Genova. E sulla creatività ci sono investimenti anche in formazione per tutelare e trasmettere il know-how, cuore del Made in Italy. Lo sviluppo naturale di questo progetto è l'arrivo in borsa, che Gismondi ha realizzato con ottimi risultati a metà dicembre 2019. L'arrivo di nuovi capitali dal mercato permetterà di affrontare un'ulteriore crescita anche sui mercati internazionali, con grande attenzione agli Stati Uniti. Ci permetterà di accelerare quello che potremmo fare ugualmente, ma in tempi molto più lunghi ovviamente. Il fatto di quotare circa il 30% della società è un qualcosa che ci darà quell'accelerata necessaria per poter far crescere il marchio, il nome a livello internazionale. Il mercato del Middle East è un mercato per noi molto importante, un mercato che è nuovo. Poi abbiamo un programma di fiere tra il Qatar e l'Arabia Saudita che si svilupperà per tutto il 2020. Senza perdere di vista però quello che è il nostro mercato principale, che è il mercato americano. Lo sviluppo del mercato americano prevederà una serie di investimenti che ci permetteranno entro il 2023 di arrivare a un numero di location tale da portare il marchio alla ribalta americana. Non mi dimentico assolutamente del mercato italiano, perché come dicevo in precedenza noi abbiamo delle boutique direttamente gestita, però il percorso ci vede portati ad ampliare quello che è il mercato wholesale, quindi una distribuzione sul nostro territorio anche. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.